Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. D'angoscia, il vivere di un consumato amore l'anima, l'anima non cresce più. Ecco nel calore incantato della notte che piena qua giù, tra le curve del fiume, le sopite visioni della città sparsa di luci, echeggia ancora di mille vite. Disamore, mistero e miseria dei sensi mi rendono nemiche le forme del mondo che fino a ieri erano la mia ragione d'esistere. Annoiato, stanco, rincaso, per neri piazzali di mercati, tristi strade intorno al porto fluviale, tra le baracche, magazzini misti agli ultimi prati, lì. Né mortale il silenzio, ma giù, giù, a Viale Marconi, alla stazione di Trastevere, appare ancora dolce la sera, ai loro rioni, alle loro borgate. Tornano su motori leggeri, in tuta coi calzoni di lavoro, ma spinti da un festivo ardore giovani, coi compagni sui sellini, ridenti, sporchi. Gli ultimi avventori chiacchierano in piedi, con voci alte nella notte, qua e là, ai tavolini dei locali, ancora lucenti e semivuoti. Stupenda e misera città, che mi ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato, con pigre dita dal fattorino che suona contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate, a difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore, a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli proprio nell'avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignote a me, stupenda e misera città. Che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognuna del mondo, una luna morente nel silenzio che di lei vive, sbianca tra violenti ardori, che miseramente sulla terra muta di vita, coi beviali, le vecchie viuzze, senza dar luce abbaiano, e in tutto il mondo le riflette lassù un po' di calda nuvolaia, è la notte più bella dell'estate, Trastevere in un odore di paglia, di vecchie stalle, di svuotate osterie non dorme ancora, gli angoli bui, le pareti placide, risuonano di incantati rumori, uomini e ragazze se ne tornano a casa, sotto festoni di luce ormai sole, verso i loro vicoli, che intasano buia immondizia, con quel passo blando da cui più l'anima era invasa, quando veramente amavo. Quando veramente volevo capire, e come allora scompaiono cantando.